Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il regista Daniele Gaglianone presenta il suo doc Dove bisogna stare, in uscita in sala mercoledì 16 gennaio 2019. Daniele, ben trovato. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Di cosa si parla? Ci racconti un po' di questo film? Allora, Dove bisogna stare è un documentario nato da un'iniziativa di Medici Senza Frontiere e di Zalab. Parla di questo, sono quattro ritratti di donne in giro per l'Italia e di diverse età che in modo anche casuale a volte si sono imbattute nel mondo dei migranti, con il mondo dei migranti, e hanno deciso di occuparsene. Ed è del ritratto di persone di cui, come dire, si sente parlare poco in giro e rappresentano un pezzo di paese che per fortuna esiste ed è anche molto più numeroso di quanto la narrazione mainstream possa far pensare. E credo che il dovere di un narratore sia quello di non piegarsi alla narrazione della realtà, ma di cercare di raccontare il reale che non è sotto i riflettori. Come mai una scelta di genere? Il fatto che siano donne io credo che sia molto importante, perché io penso che, diciamo così, da quella parte di mondo può venire qualcosa di buono. Credo che non sia un caso che spesso chi riesce a conciliare in modo efficace pragmatismo e idealismo sia una donna. Queste quattro persone sono persone di una determinazione e di una quiete anche incredibile. Quiete nel senso che quello che fanno è oggettivamente straordinario, ma nello stesso tempo di una normalità sconcertante. E anche se sono, a volte si capisce che sono anche capaci di rabbia, però quando parlo di quiete mi riferisco al fatto che sono tranquille nel loro aver fatto una scelta, di aver deciso di non girarsi dall'altra parte, ecco, e di non nascondere la testa sotto la sabbia di fronte a un problema che è un problema che riguarda tutti, che riguarda il pianeta intero e che è un problema epocale. Che sensazione hai ricavato dall'incontro con queste quattro persone? Ma guarda, cioè, a un certo punto nel documentario una delle protagoniste, Elena Ingoldi Susa, racconta di quanto lei si sentiva piccolissima di fronte alle persone che andava ad incontrare, che cercavano, dopo un viaggio pazzesco, di superare il colle della scala innevato a meno 20. Ecco, anch'io mi sento piccolissimo in confronto, mi sono sentito piccolissimo anch'io di fronte alla forza, alla determinazione di queste donne. Il titolo mi piace, dà l'idea proprio della scelta che citavi prima. Sì, devo dire una cosa, che il titolo secondo me è molto efficace, perché quella parola, bisogna, questa necessità, è una necessità che non riguarda solo una prospettiva altruista, come dire, la necessità di aiutare l'altro, di stare con l'altro, ma secondo me sottolinea anche implicitamente una necessità magari più interiore, ma non meno forte, di fare qualcosa per la propria vita. Cioè, dove bisogna stare può anche essere io devo stare qui, io ho bisogno di stare qui, che se non fossi qui starei male, starei peggio. E allora questo bisogna non va solo in una direzione, è qualcosa che ci fa capire che occuparsi degli altri vuol dire occuparsi di se stessi. Mi dicevi prima di un'uscita a macchia di leopardo, per avere ulteriori informazioni ci sono dei riferimenti web? Sì, beh, c'è sulla pagina Facebook di Zalab, che è la distribuzione del film, e il film ovviamente, come potete immaginare, distribuire un film è molto difficile, è difficile distribuire un documentario, ma la Zalab sta facendo veramente un grande lavoro ed è un film che secondo me riuscirà a penetrare più territori possibile. Credo che insomma già questa settimana il film esce a Torino, a Milano, Roma e anche in altri posti, a Mantova, a Padova, poi è un film che può essere distribuito anche in modo, come dire, più flessibile, non un film che può essere distribuito anche nel tempo ed è importante riuscire a distribuirlo in modo capillare e anche in situazioni non propriamente da sala cinematografica. Quindi ecco, la distribuzione indipendente spesso è un po' guerrigliera, no? Mordi e fuggi, e quindi di fronte ai grossi eserciti dispiegati è giusto, come dire, comportarsi da guerriglieri, ecco. E quindi io penso che, spero, ma sono convinto che il film riesca ad arrivare in molti posti. E allora ricordiamo dove bisogna stare. Un saluto e un ringraziamento a Daniele Gaglianone, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, Daniele. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Il regista Daniele Gaglianone presenta il suo doc Dove bisogna stare, in uscita in sala mercoledì 16 gennaio 2019. Alessandro Tiberio di Valmin, che insieme a Wanted Cinema lo distribuisce, presentiamo il film La Douleur di Emmanuel Finkiel, in uscita in sala giovedì 17 gennaio 2019. Alessandro, ben trovato. Grazie Federico, c'è un grande piacere essere di nuovo qua. Ce lo presenti? È un film che Emmanuel Finkiel ha adattato e diretto a partire da un romanzo, anche se non è una definizione troppo appropriata, della grandissima Marguerite Duras. Non è propriamente un romanzo perché appunto la genesi di questo testo, che è edito da Feltrinelli, diciamo, la Duras è l'autrice dell'arcinoto L'amante, da cui è stato tratto il film di Jean-Jacques Annaud, e è stata la sceneggiatrice di quel capolavoro immortale che è Hiroshima Mon Amour, con cui fu candidata anche all'Oscar, e una delle autrici iconiche del Novecento, che ha scritto nel 1944-45 un diario, diciamo, di getto proprio, nel periodo durante il quale il marito, Robert Anselm, sparì. Appunto, durante l'occupazione nazista, Marguerite Duras scopre che il marito è stato deportato in quelli che allora non erano neanche conosciuti come campi di concentramento. Questo diario, la Duras negli anni, all'inizio degli anni 80, diciamo nell'84, quindi 40 anni dopo, lo ritrova, e questo è splendidamente raccontato anche all'inizio del film, lo ritrova riconoscendo la propria scrittura, ma non ricordando di averlo scritto, e decide di non toccare questo diario, appunto scritto, diciamo così, di pancia, e di elaborare invece un testo a corredo di questa parte di diario, rielaborando l'esperienza con la distanza temporale. E quindi il libro, il dolore, è appunto scisso tra due parti, una parte febbrile, immediata, con una scrittura appunto urgente, e una parte di rielaborazione di quell'esperienza successiva. In tutto è composto da sei racconti, sei, diciamo, sezioni. Finkiel è riuscito a unire queste due nature, creando appunto un film che ha un doppio binario di esistenza, quello della narrazione nel presente, appunto di ciò che accade a Marguerite nella sua esperienza, e invece una parte di riflessione narrativa molto poetica, molto lirica, della riflessione su quello che sta accadendo. In realtà il film è una grandissima storia d'amore raccontata dal punto di vista dell'attesa, dell'assenza, di questo non riuscire a decidere se continuare a nutrire la speranza di riuscire a ritrovare il marito, oppure del dover abbandonare, insomma, questa prospettiva. E il personaggio appunto della Duras, il film non è un biopic di Marguerite Duras, è proprio un film film che l'ha come protagonista, riesce a cogliere questo stato di grandissima tensione, di grandissima passione che ha questa donna, appunto, in una fase che raramente è stata raccontata nel cinema, perché di solito nel cinema l'esperienza dei campi di concentramento della Shoah, anche se in questo caso il discorso è anche più ampio, viene raccontato dal punto di vista in prima persona di chi la subisce. Qui invece abbiamo un controcampo, cioè abbiamo il controcampo di chi non conosce questa realtà, non conosce questa tragedia storica che in realtà è emersa molti anni dopo. Siamo venuti a conoscenza molti anni dopo dei dettagli di tutto ciò che è successo, e appunto siamo davanti alla non conoscenza, proprio alla tensione enorme del non sapere. Tra l'altro questa cosa mi ha colpito moltissimo, perché alcune persone che hanno visto il film hanno collegato alcune storie personali della propria famiglia, cioè era molto comune in quel periodo che appunto si perdesse contatti, conoscenza, non si sapesse che cosa è accaduto alle persone che partecipavano a questa guerra. Cioè addirittura in famiglia mia madre mi raccontava che il nonno che partiva per le campagne di guerra andava via per mesi, tanti mesi, addirittura anni, senza dare notizie a casa, e in mezzo nascevano figli. Quindi appunto era una situazione più comune di quanto immaginassi, questa situazione terribile delle donne che attendono notizia del loro amore che debba tornare dalla guerra, insomma. Ecco, un film su un'attesa dolorosa. Hai parlato molto del libro, volevo chiederti se lo hai letto e che ne pensavi di questa operazione di trasposizione. Sì, il libro l'ho letto. Secondo me l'operazione di trasposizione è impressionante nella misura in cui riesce a rendere perfettamente l'emotività del libro, però tradendo il libro, cosa che è necessaria quando si passa da un linguaggio all'altro, dalla letteratura, in questo caso al cinema. E quindi appunto, più che di adattamento, uno dovrebbe sempre analizzare il tradimento che è stato fatto nei confronti dell'opera. In questo caso è molto interessante il fatto che, appunto, come dicevo all'inizio, pur tradendo la natura del libro che è scissa, cercando di creare un equilibrio tra questi due punti di vista, cosa che secondo me è riuscito a fare in maniera molto efficace, si è invece preservato perfettamente lo spirito della scrittura. È un film dove il testo, il parlato, è di un lirismo e di una poeticità altissima. È stato uno dei motivi che mi ha conquistato, che ci ha entusiasmati nello scegliere questo film, era proprio di proporre al pubblico un'esperienza di parola che davvero molto raramente viene somministrata, insomma, nel cinema. E da questo punto di vista il film è fedele alla lettera su tantissimi passi, soprattutto nella parte, appunto, che è molto presente questa voce fuori campo ipnotica, meravigliosa di Marguerite Duras, che riprende proprio in maniera fedele e quasi pedissequa, insomma, il testo. E un'altra cosa molto molto interessante che secondo me il regista ha scelto è quella di decidere di non mostrare la figura del marito. Cioè la figura del marito nel film, mentre nel libro c'è tutta una sezione estremamente, devo dire, lancinante nel libro, la descrizione di quello che è poi la figura di quest'uomo durante appunto questo supplizio, invece nel film la figura di Anselme è l'assenza, e quindi secondo me, raggiungendo un livello di poesia notevole, viene sempre mostrato in maniera parziale, con dei dettagli, con delle sfocature. Ecco, questa è un'altra cifra stilistica che ho trovato straordinaria nel film, appunto, a cui forse non siamo più abituati. Il film, per tanti versi, devo dire che mi ha richiamato alcune suggestioni degli anni 60-70 della cinematografia di quegli anni. Appunto, ho pensato molto a Hiroshima Mon Amour, cioè un'affinità profonda proprio sull'utilizzo della distorsione dell'immagine, delle sfocature, per rendere questa confusione che è nella mente della scrittrice, che dichiara fin dall'inizio, perché parla di una meravigliosa confusione di sentimenti che lei trova messa su carta in questo diario da lei scritto tanti anni prima, e il film la rende perfettamente a livello di linguaggio cinematografico, con una ricchezza visiva, a mio parere, veramente impressionante. Insomma, spero che così la penseranno gli spettatori. Mi ha colpito la rappresentazione dell'ambiente della resistenza parigina, freddo e schematico, secondo me. Molto geometrico, sì. Sì. Questo corrisponde a come lei vive questa esperienza, certo. Cioè lei vede esplodere il mondo intorno, vede la gioia di questa fase, appunto, della liberazione di Parigi, le feste ovunque, questo continuo ritorno di prigionieri, di soldati, eccetera, eccetera, ma lei non vi può partecipare perché lei è in questo stato di attesa e quindi osserva, ma ha difficoltà appunto a entrare nell'emotività gioiosa di quella fase storica. In quante copie? Guarda, è stato molto molto molto, devo dire, ambizioso, anche forse troppo, proporre al mercato, insomma, un film del genere. Noi siamo una società veramente appena nata, appunto abbiamo avuto questa bellissima esperienza con il giovane Karl Marx primavera scorsa, ma ecco, ci stiamo rendendo conto che proporre un film che, in cui noi crediamo tantissimo, ma chiaramente in un periodo così hot dal punto di vista del mercato cinematografico è complicato, ma a oggi stanno arrivando richieste in tempo reale, siamo oltre le 40 sale, 42 sale. Beh. Quindi, insomma, direi che lo sforzo è stato riconosciuto dagli esercenti, che hanno, insomma, stanno constatando anche a livello, insomma, di critica che il film è, cioè, ha una caratura notevole, e credo, insomma, che sia un oggetto importante da vedere, perché veramente ha un livello di poesia che è raro trovare nel cinema contemporaneo. Finkiel è stato anche assistente alla regia di Godard e Kieslowski, che non è poco. Sì, nella trilogia dei colori di Kieslowski si percepisce quel tipo di livello di ricerca visiva, di livello di ricerca narrativa, ovviamente adattato alla necessità degli anni 2000 quasi 20, però c'è, insomma, una matrice, una caratura di base, secondo me, di un livello veramente importante. Ricordiamo l'uscita in sala del film La Douleur di Emmanuel Finkiel, in sala da giovedì 17 gennaio 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Tiberio di Valmin, che insieme a Wanted Cinema lo distribuisce. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Crepi, a prestissimo. Ciao. Con Francesco Raganato, regista del documentario Digital Life, in uscita in sala il 16 gennaio 2019. Francesco, ben trovato. Grazie a te, ben trovato. Ci racconti di questo lavoro? Digital Life è un film corale, collettivo, nel senso che è un film fatto da filmati presi dalla rete, o meglio, filmati che sono stati inviati da utenti della rete, quindi un film fatto di tante piccole storie che ci raccontano di come il digitale ha cambiato la vita delle persone protagoniste di queste storie. Quindi non sono opinioni generiche, molto generali su internet, sul digitale, ma storie molto precise in cui internet o il digitale sono intervenuti nella vita di queste persone in bene o in male. Ecco, che tipo di ricerca hai fatto in questo senso nella rete? È stata difficile perché abbiamo mandato una prima, abbiamo creato un sito intanto del digitallife.org, e da questo sito abbiamo mandato varie chiamate nella rete, cioè varie proprio raccolta, abbiamo fatto proprio una raccolta di video chiedendo alle persone: raccontateci la vostra storia. Sono arrivate tantissime storie, purtroppo quando si parla di digitale ancora c'è una sorta di adolescenza in corso, nel senso non sappiamo bene cos'è il digitale, cos'è internet, perché lo abbiamo appena scoperto parlando in termini storici. Quindi il 90% delle storie che arrivavano erano del genere: internet mi ha cambiato la vita perché con Google Maps

Chiara Pellegrini, direttrice della quarta edizione di Fish and Chips Film Festival, festival internazionale del cinema erotico e del sessuale, a Torino dal 17 al 20 gennaio 2019. Chiara, ben trovata. Ciao, ciao a tutti, grazie per averci contattato. È la nostra prima volta, ci racconti un po' di questo festival? Allora, è un festival che nasce ormai 4 anni fa da un gruppo di amici e colleghi che a Torino si occupa principalmente di cinema. Nasce dall'esigenza di parlare di sessualità e dato appunto che noi siamo tutti un po' impegnati nella settima arte, abbiamo deciso di farlo attraverso il mezzo cinematografico. Quindi infatti è un festival che ha un concorso, si prevede un concorso di lungometraggi, un concorso di cortometraggi, entrambi suddivisi in 2 sezioni. I lungometraggi sono divisi in lunghi fiction e lunghi doc e i cortometraggi in corti soft e corti hardcore. E poi parallelamente a questi ci sono omaggi, focus e incontri invece per dibattere di vari temi. Abbiamo parlato di disabilità, di sessualità, abbiamo parlato di asessualità, insomma ogni anno cerchiamo di affiancare una parte invece un po' più di riflessione, un po' più di dibattito. Ok. Come ha funzionato la selezione? C'è stata una call o siete andati per festival a cercare materiale? Diciamo entrambe le cose, noi ci affidiamo delle piattaforme online che insomma mettono in comunicazione registi e festival e in più buttiamo un occhio, andiamo in diversi festival in giro per l'Europa di 2 tipologie, sia quelli più affini a Fish and Chips, quindi festival fratelli e sorelle che anch'essi si occupano di sessualità, e penso ad esempio alla Fred Slip che c'è a Losanna in Svizzera, o i Porn Days o il Porn Festival di Berlino che è un, insomma, uno dei principali appuntamenti qua in Europa, oppure insomma Cannes, Venezia, Locarno, i festival normali, tra virgolette, che presentano magari delle opere, delle pellicole che trattano il tema della sessualità. Mi hai detto delle tematiche che cercate di incontrare ogni anno, questa edizione è suddivisa in sessioni per aree? Ma sì, diciamo che appunto c'è l'area del concorso, divisa poi in lungometraggi e cortometraggi, e poi c'è la parte dei focus e degli omaggi. Come focus oggi quindi insomma, questa edizione si tratterà di ecosessualità, ovvero l'incontro tra natura e sessualità, dove si intersecano un po' i temi dell'ecologia e della sessuologia, presentando il documentario Water Makes Us Wet di Annie Sprinkle e Beth Stephens. Annie Sprinkle, insomma, ex performer della Golden Age of Porn, che poi insieme a un gruppo di colleghe dà via al cosiddetto filone del porno femminismo e del post-porno. E poi ci saranno insomma i classici, che quest'anno cercheremo di dare un po' le file dell'evoluzione del porno, anche un po' a partire da quello che abbiamo presentato noi in situazione, nelle varie edizioni del festival, di Strada, Lavina, c'è pornografa femminista che si è occupata, insomma, si occupa da anni dei temi dell'erotismo e della pornografia, anche da un punto di vista un po' più politico. Strada di Ferrari, il regista di Guardami, che verrà omaggiato a questa edizione, Pierre Mou che è un performer, e Sandra Vanto che è un critico cinematografico. E in più un incontro sul genitoria indipendente, un incontro sul consenso del BDSM, e questo insomma varie cose. Vi invito a guardare il nostro sito e a scoprirle tutte. Chiara, in generale, qual è il rapporto tra cinema e sessualità esplicita? È tutto all'interno della categoria porno? Sì, diciamo che la categoria porno è un'etichetta che serve più a chi gestisce e si censura, insomma, nei vari paesi. E quindi quello che può essere pornografia in Italia può non essere pornografia da altre parti del mondo e viceversa. Il rapporto, insomma, è ancora un po' conflittuale. oppure è un rapporto di, insomma, di mera oggettificazione. Noi cerchiamo di inserirci nel mezzo e presentare pellicole che secondo noi, insomma, compiono invece un'unione virtuosa delle due cose. Questo titolo per il festival? Questo titolo è un po', insomma, la dimostrazione che cerchiamo di non prenderci troppo sul serio, trattiamo di temi non facili e quindi cerchiamo di non appesantirci troppo, pur comunque facendolo in maniera assolutamente seria e preparata, che a mio modo parere, insomma, penso. E quindi niente, nacque un giorno girovagando per uno dei quartieri di Torino, che era alla ricerca disperata di un nome, una cosa assolutamente non facile da fare, e quindi una zaffata di fritto ci fece venire in mente Fish and Chips, che è appunto la società per fish, insomma, pesce e chips, patata, non so, se spero che l'abbiano colto tutti, comunque in casa adesso ho svelato l'arcano. I luoghi del festival? Sono vari, ma la sede principale è il Cinema Massimo di Torino, di via Verdi 18, che è appunto la sede principale delle varie proiezioni. Oltre a quello ci sarà il Piazza di Via Po, che è un locale con cui collaboriamo già dall'anno scorso, che sarà sede anche lì di alcune proiezioni e di alcuni incontri. Poi ci sarà Fesma Morra, che è uno studio di via Bolgino 9, sempre a Torino ovviamente, in cui è allestita la mostra sulle locandine vintage erotico-pornografiche. E lì si terranno appunto l'incontro sul consenso nel BDSM, l'incontro sull'evoluzione del porno, eccetera, eccetera. In più, la nostra festa, il nostro wet party, si terrà al Bunker con il concerto di Da Dietro e il DJ set di Gwen Stefanini e della Mallorbone Crew. In più, quest'anno abbiamo deciso di allestire una dark room gestita da Porno Poetica, che è il progetto portato avanti da Città Cosetta Raccagni e Barbara Stimoli. In chiusura ci lasci nuovamente tutti i riferimenti web per seguire la programmazione? Sì, allora potete trovare il programma di Fish and Chips dal 17 al 20 gennaio a Torino sul nostro sito www.fishandchipsfilmfestival.com, sulla nostra pagina Facebook Fish and Chips Film Festival, Twitter, Instagram. E allora un saluto e un ringraziamento alla direttrice di questa quarta edizione, Chiara Pellegrini. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie e grazie a voi, ciao a tutti. Con il regista Alessandro Marinelli per parlare del suo documentario Basileus, che sarà a Roma all'Apollo 11 giovedì 17 gennaio. Alessandro, ben trovato. Ben trovati a tutti, ben trovato. La proiezione alla tua presenza, immagino. Sì, sì, alla mia presenza. Ci racconti un po' di questa storia? Sì, allora, la storia si svolge a San Basilio, in una scuola. E tutto nasce però da qualche anno fa dalla visione del documentario di De Seda di Orio Maestro, e dopo questa visione, insomma, spinto dalla curiosità, volevo un po' ritornare in quei posti dove, insomma, è stato ambientato quel film, e quindi ho cominciato a cercare, diciamo, una scuola adatta, e mi sono imbattuto nella scuola Federico Fellini di San Basilio. E grazie a un'educatrice che lavora là, Ilaria D'Agostino, ho potuto entrare in contatto con la scuola e quindi ho cominciato a fare un laboratorio di cinema per i ragazzi, e questo, insomma, mi ha portato poi a conoscere i professori, a, diciamo, ottenere un po' di fiducia reciproca con la classe e con i professori, e piano piano, dopo un po' di mesi di osservazione, ho cominciato le riprese. Questa è stata la prima fase. Quanto tempo sono durate queste riprese? Allora, le riprese sono durate circa 6 mesi, quindi da, diciamo, da novembre fino più o meno a giugno, quando è finita la scuola, abbiamo terminato le riprese. Poi ci è voluto insomma quasi un anno per montare, perché avevamo quasi 300 ore di girato, e quindi insomma è stata un po' una sfida assemblarlo, anche perché il film non è composto da interviste, ma solamente da, diciamo, da momenti, frammenti di realtà, possiamo definire, no? Sì. E quindi io cercavo la verità e cercavo soprattutto di nascondermi nella classe, quindi ovviamente quindi i primi mesi di riprese insomma ho buttato molto materiale, perché i bambini erano ancora distratti dalla camera. Poi quando sono diventato invisibile, sono diventato, mi piace dire che sono diventato un loro compagno di banco, mi sono messo vicino a loro e loro si sono aperti. A un certo punto insomma mi hanno considerato parte della classe e quindi hanno ignorato completamente la mia presenza, ed ho potuto raggiungere insomma il mio obiettivo, quindi di raccontare la storia senza, diciamo, senza partecipare, diciamo, nella vita di classe, o solo osservando insomma tutte le dinamiche che accadevano di fronte ai miei occhi insomma durante l'unità didattica. E quindi è tutto ambientato, diciamo, nella scuola e nel dopo scuola, diciamo. Il teatro mi sono messo questo, insomma, questa barriera, e questo è stato insomma, diciamo, il percorso tutto. E poi l'abbiamo presentato al Giffoni, l'abbiamo inviato, insomma ci hanno risposto positivamente, e infatti sono contento di dire che è stato l'unico documentario italiano in concorso, insomma ed è stata un'esperienza bellissima qui al Giffoni. Alessandro, quante giovani persone hai seguito? Allora, abbiamo circa, diciamo in generale, una classe, di questa classe ce ne sono circa 3 o 4 protagonisti, e poi c'era una invece prima media dove ci sono altri 2 personaggi, insomma, quindi diciamo un film abbastanza corale, okay. Non c'è un solo personaggio ma si porta avanti, e poi seguiamo anche i professori, ovviamente il punto di vista è sui ragazzi comunque. Che esperienza è stata rispetto al mondo giovanile che ti sei trovato di fronte? Ma in realtà io sono partito insomma molto senza nessuna ideologia precisa, solo con lo scopo di osservare. In effetti, infatti, all'inizio non avevo trovato ancora insomma una produzione, perché volevo capire anche io cosa raccontare, perché sapevo che volevo raccontare quel mondo giovanile, il mondo delle periferie, volevo vedere com'era cambiata la scuola, com'era la scuola di oggi, quali erano le difficoltà che c'erano, no? Sì. E quindi senza nessuna insomma ideologia sono arrivato e ho cominciato ad osservare. Ovviamente mi hanno un po' attirato di più i ragazzi, quelli un po' più magari problematici, quelli insomma che avevano dei conflitti, ovviamente, perché insomma senza conflitto non c'è storia. E però insomma, osservando così, anche i ragazzi si sono accorti che non volevo andare là a fare qualcosa da vedere se sono criminali i ragazzi di San Basilio eccetera. Loro hanno capito che io volevo raccontarli, raccontare insomma il loro intimo, senza andare, andando al di là dell'apparenza magari. Allora magari c'era quello che sembrava bullo e si comportava un po' male a scuola eccetera, e poi invece scopre che magari è un'anima molto delicata e fragile, è una persona insomma molto, molto positiva. E questo è stato apprezzato dai ragazzi che l'hanno visto, perché insomma li ho disegnati come sono loro, insomma, senza diciamo far vedere la parte iniziale, che era quella là un po' più di superficie, dove insomma sembravano dei ragazzi difficili, e quindi ho cercato di tirare fuori l'anima dei loro, insomma, della loro condizione, la bellezza, diciamo, che c'è nonostante insomma i problemi che c'è il quartiere, quindi ho cercato la bellezza là. E rispetto al corpo docente, che idea ti sei fatto? Beh, lì fanno veramente un lavoro straordinario, cioè la vicepreside, la professoressa Delizzaro, che è un po' il motore della scuola, e lei riesce a gestire tutti in una maniera incredibile, fatta collante, e chi insegna là vede proprio l'insegnamento come una missione, cioè i professori che magari all'inizio si trovano difficoltà, quelli che magari non credono fermamente nel proprio lavoro, oppure che hanno paura delle difficoltà, chiedono il trasferimento, invece quelli che rimangono sono quelli tossi, cioè quelli che nonostante le difficoltà riescono a ottenere dei risultati e quindi cambiare la vita di alcuni ragazzi. Questo titolo? è una battuta del film. Basileus ha a che fare con la nobiltà, con l'essere re, e quindi in qualche modo chi abita a San Basilio in qualche modo è regale. E poi c'era questo contrasto, che quindi il quartiere è un po' difficile, un po' insomma non ricco ovviamente, no? Quindi un po' tra virgolette marginale, e allora invece mi piaceva questa nobiltà che avevano d'animo i ragazzi, e quindi erano la scuola dei re, quindi è venuto fuori quindi il titolo. Era una battuta del film e poi insomma si è trasformata in titolo e mi sembrava molto adatto. Bene, bene. Per avere informazioni su proiezioni e distribuzione c'è una pagina web? Sì, c'è una pagina Facebook che si chiama Basileus la scuola dei re, e poi c'è anche notizie che possono trovare sul mio sito alessandromadelli.com, e quindi già insomma stiamo organizzando una piccola distribuzione a Roma e anche in futuro insomma in altre città, e quindi insomma dopo questa proiezione probabilmente magari riusciremo a inserirlo anche in programmazione, e adesso quindi è tutto in work in progress, però insomma già sono contento che stiamo uscendo un pochino con una piccola distribuzione, perché il documentario ha sempre un po' di difficoltà, nonostante comunque il film è stato, i diritti sono stati acquistati da Rai Cinema, che probabilmente lo manderà in onda la Rai da qui insomma a qualche mese, però adesso abbiamo questa finestra che ancora, visto che ancora non va in onda, possiamo insomma cercare un po' di spingere con una distribuzione, perché secondo me è un documentario che soprattutto gli insegnanti, ma anche tutto il pubblico insomma dovrebbe vedere, perché fa vedere proprio il lavoro sul campo e poi interroga secondo me sul ruolo dell'insegnante, quindi chi lo vede, anche gli insegnanti che l'hanno visto a Gifoni, tutti chiedevano ma qual è la strategia di questa scuola, e in qualche modo fa vedere diversi metodi di insegnamento. E quindi in qualche modo chi insegna, qualsiasi persona insegna, comunque ha a che fare con la scuola, interroga sul proprio lavoro, quindi suscita delle domande, diciamo. Bene, e allora ricordiamo l'appuntamento a Roma, all'Apollo 11, giovedì 17 gennaio, la presenza del regista Alessandro Marinelli. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Credi, va bene, un abbraccio anche a te. Con Eleonora Marino, curatrice di Altri Mondi, Pomezia Doc Fest dal 18 gennaio al 3 maggio 2019. Eleonora, ben trovata. Ciao Federico, ciao a tutti. Se non sbaglio, una prima edizione, raccontaci tutto. Allora, sì, è una prima edizione di una rassegna di documentari di frontiera, l'abbiamo chiamata così, perché abbiamo deciso di fare questa rassegna a Pomezia. Un luogo, diciamo, che effettivamente a nostro avviso è stato un po' dimenticato, se non mai annoverato nel circuito ufficiale insomma delle cose culturali. Quindi con un amico che mi ha coinvolto, Marco Giannini, un attore e comunque animatore di questa associazione culturale che si chiama Pancrazio, che ospiterà la rassegna, lui ha avuto l'idea, mi ha coinvolto perché insomma io faccio documentari sia come montatrice che come regista, e quindi mi ha chiesto una mano sia per capire quali documentari proiettare, insomma sia per l'organizzazione. Io mi sono buttata volentieri perché ci sembra importante insomma per uscire anche un po' da questo, diciamo così, imbarbarimento attuale, ricominciare dal basso, e quindi da una piccola associazione culturale dove proietteremo 5 documentari cosiddetti di creazione. Inizieremo con il mio documentario, che è un documentario già di qualche anno fa, ma insomma credo che sia sempre bello rivedere dei documentari che in qualche modo parlano di cose particolari. In questo caso La bella Virginia al bagno parla del mondo dei circhi, dei Luna Park e delle fiere, quindi insomma è un viaggio anche effettivamente proprio nell'altrove, no? Sia nell'altrove dell'immaginario che in un altrove anche fisico. Tra l'altro è il documentario con cui ci eravamo sentiti la prima volta. Esatto, sì, ci eravamo già sentiti per questo documentario. E poi ci sono altri 4 insomma documentari molto interessanti che adesso ti nomino, tutti i registi ce l'hanno dati peraltro gratuitamente, i registi, le produzioni e le distribuzioni, perché comunque la rassegna è una rassegna gratuita, proprio perché vogliamo insomma portare più gente possibile a vedere questi documentari, perché ci sembra insomma, un bel momento sia di riflessione che di confronto. E quindi tutti si sono prestati, cioè hanno dato le loro opere gratuitamente e verranno anche a parlare con gli spettatori dopo le proiezioni, no? Che mi sembra sempre una cosa molto bella, interessante. Il 1 febbraio ci sarà Il principe di Ostia Bronx di Raffaele Passerini, che non so se ti è capitato di vederlo, è veramente molto bello, parla di questi insomma due personaggi particolari che vivono nel litorale romano a Tor Vaglianica, molto interessante. Poi c'è A faccia di Fabrizio Di Vigni, ambientato a Napoli, in quartieri spagnoli. La libertà della luna di Alessandro Scibitani, con tutte le persone che hanno fatto delle scelte particolari nella loro vita. E chiuderemo il 3 maggio con Pagine nascoste di Sabrina Varani, un documentario molto bello e molto importante che dà una lettura particolare di, diciamo, la colonizzazione fascista dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia. Insomma, 5 secondo me bei documentari di frontiera. Tutte le informazioni online dove si possono cercare? Allora, abbiamo una pagina Facebook che si chiama Altri Mondi, Pomezia Doc Fest. Ci sono tutte le informazioni, c'è il calendario. Se volete insomma anche farci domande, rispondiamo, mettere post, condividere con gli amici, è una buona occasione, perché ecco, è vero che ci sono è vicinissima Pomezia, non è sempre così comoda, soprattutto perché parte da Roma, però penso che esista solo il Pigneto in qualche modo. E quindi speriamo insomma che vengano più persone possibili. Sarà un momento insomma di confronto e anche per stare insieme, insomma, ecco, bar, ci prendiamo qualcosa da bere, da mangiare. E allora ricordiamo Altri Mondi, Pomezia Doc Fest, dal 18 gennaio al 3 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Eleonora Marino. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille e crea il lupo. Con Barbara Goretti, curatrice di una serie di appuntamenti dal titolo Storie d'inverno, a Roma, Cinecittà, dal 19 gennaio al 3 marzo 2019. Barbara, ben trovata. Buongiorno Federico, ben trovato. Ci racconti? Sì, certo, Storie d'inverno è un nuovo appuntamento che Cinecittà si mostra, propone ai suoi visitatori per passare dei weekend un po' diversi con delle visite, delle proiezioni che raccontano appunto storie. Raccontano storie naturalmente legate al cinema, ma anche legate a Cinecittà come luogo e come luogo storico. Quindi molti temi, tutti molto diversi, che un po' fanno capire quanto sia complesso il mondo di Cinecittà, che va appunto dagli studi cinematografici ma anche a piccole grandi storie. Cominciamo il 19 gennaio con la visita dedicata alle donne, che si chiama Con gli occhi delle donne, e terminiamo il 3 marzo con una visita diversa, una visita dedicata all'antica Roma, una visita animata che sarà anche in qualche modo recitata e molto performativa sia per chi la conduce che per chi la vivrà e la seguirà. Quanti sono gli appuntamenti? Gli appuntamenti sono due per ogni weekend, e la mattina il pomeriggio di ogni sabato e la mattina alle 11 di tutte le domeniche, quindi insomma abbiamo un'offerta abbastanza vasta e per un pubblico diverso, qualcosa che piacerà agli appassionati di cinema, qualcosa che ameranno gli studiosi di architettura ma anche di storia contemporanea, o semplicemente i più curiosi, visto che ci saranno delle visite particolari anche legate a temi insoliti come quella della scaramanzia ad esempio, oppure quello dedicato a Cara Cinecittà, che sicuramente nel weekend dedicato anche al giorno della memoria è il nostro appuntamento, che non parla tanto della memoria storica collettiva quanto delle singole memorie che sono arrivate attraverso la forma di lettere da tante persone che hanno amato in modo diverso Cinecittà e che Cinecittà Istituto Luce ha raccolto in una pubblicazione. Naturalmente poi il giorno della memoria sarà dedicato alla storia con la S maiuscola, che racconta anche di Cinecittà in quanto campo profughi, e quindi una, diciamo, notazione meno nota di questi studi che in realtà riveste un momento importante anche della storia contemporanea italiana e internazionale. Allora, i film sono legati alle visite. Ci puoi anticipare qualcosa sui titoli scelti? Sì, certo. Abbiamo cercato di accompagnare ogni visita con una proiezione che per tema e per soggetto potesse abbinarsi al racconto, alla narrazione, quindi che si continuasse in forma di racconto cinematografico questa idea della narrazione e della storia. Quindi per quanto riguarda il primo appuntamento con gli occhi delle donne, avremo il docufilm di Giovanna Gagliardo, Bellissime, mentre avremo per Federico Fellini a Cinecittà, che è la visita che aspetta i visitatori per il compleanno del grande regista il 20 gennaio, il film di Ettore Scola, che saranno chiamarsi Federico, che è stato interamente girato nel Teatro 5, proprio come un grande omaggio a questo luogo, ma soprattutto al maestro Federico Fellini. E avremo ancora per la giornata della memoria il film documentario Maestro di Alexander Valenti, e ancora Profughi a Cinecittà di Marco Bertozzi. Fino a materiali anche meno noti dell'archivio storico di Istituto del Cinecittà, come parti tratti dal fondo Mario Canale ed altri. Quindi diciamo uno spettro abbastanza vasto di scelte e di offerte. Benissimo. È anche un modo, questo mi piace dirlo, per raccontare un po' tutto quello che facciamo. Da un lato, quindi, la valorizzazione di Cinecittà come luogo, e quindi di apertura al pubblico, di conoscenza del patrimonio, e dall'altra anche la conoscenza per il pubblico di un'attività di distribuzione, di sostegno al cinema italiano che fa Istituto Luce da tempo. Benissimo. Per il calendario, dove si può cercare in rete? Sempre sul sito della mostra www.cinecittastimostra.it oppure sul sito di Istituto Luce, siamo lì. Allora, ricordiamo il ciclo di visite e proiezioni dal titolo Storie d'inverno a Roma, Cinecittà, dal 19 gennaio al 3 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Barbara Goretti. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, un saluto, ciao. Con Monica Maurer dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, archivio che organizza la proiezione evento insieme alla regista Margaret Frontrotta a un secolo dall'assassinio di Rosa Luxemburg, proiezione dell'omonimo film. Tutto questo alla Casa del Cinema a Roma il prossimo 21 gennaio, lunedì 2019. E Monica, ben trovata. Grazie, ben trovata. Io senti, lo facciamo noi come archivio insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia, al Goethe Institute di Roma e la Gian Maria Volonté. Certo, la bella cosa è che non si limita alla proiezione, questa iniziativa, alla proiezione lunedì alle 16 alla Casa del Cinema, ma seguirà un compendio didattico sul Rosa Luxemburg e la Repubblica di Weimar, che proporremo alle scuole, anche alle università. E infatti, al contrario di quello che si pensa, anche se molti giovani forse hanno sentito il nome ma non sanno molto sulla Repubblica di Weimar, che diventa sempre più attuale e che ci è un gran interesse, perché si sono già fatto io delle classi che vengono anche di altre parti dell'Italia per vedere questo film e partecipare alla lezione di cinema, come lo chiamiamo, che è un dialogo dopo il film di Margherita Fontrotta con il professor Pietro Montani della Sapienza. 100 anni fa Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, il suo compagno di lotta contro la guerra, fondatore del gruppo Spartaco, che è stata assassinata per la sua lotta contro il nazionalismo, contro repressione del famigerato Noske, che era capo della polizia allora, è buttato nell'Amplia Canal, in un canale a Berlino. Da tanti anni però a Berlino, proprio questo giorno, ci sono migliaia di persone che vanno in strada e fanno un corteo al cimitero dove c'è una lapide per lei, e immagino che oggi dovrebbe essere in corso, immagino che oggi ci saranno ancora più che l'altro anno, che erano in 15.000. Ci racconti un po' bene come sarà articolata la giornata, oltre alla proiezione e alla presenza della regista? Ci sarà un saluto di Felice Laudadio, presidente del Centro Nazionale di Cinematografia, di Vincenzo Vita, che è il presidente del nostro archivio dell'AMOP. Poi ci sarà il film, che dura 2 ore, e poi ci sarà questo intervento di Margherita dialogando con appunto il professor Pietro Montani, in cui parlerà del lavoro su questo film, la storia anche, perché sai, la cosa interessante è che il film doveva era Fassbinder. Anna Fassbinder, che voleva fare un film su Rosa, e ha fatto scrivere una sceneggiatura, Lett Scheimer, che è un sceneggiatore molto quotato in Germania allora. Il film è dell'85, è uscito nell'86, quindi vabbè, più di 30 anni. Bene, ha chiesto, perché tu sai che Fassbinder era una locomotiva, faceva uno o due film per anno, e aveva questa sceneggiatura, e ha chiesto, perché non si sentivano bene, a Margherita se lei, come lei donna, che fosse interessata in questo oggetto. Lei ha detto certo che sì, ma quando poi lui pochi mesi dopo è morto, la produzione e il sceneggiatore hanno chiesto a Margherita se lei, come era suo desiderio anche, se lei volesse fare questo film. E lei prima non era sicura, aveva detto, un personaggio così importante, così complesso, aveva paura di non essere all'altezza di affrontare una fase storica e una persona così carica di contraddizioni ma anche di messaggi, e quindi si è preso un po' di tempo di riflettere, poi ha deciso di affrontarlo, però con la condizione che non deve fare il film come la sceneggiatura già scritta, perché lei da sempre scrive le sue proprie sceneggiature o comunque li elabora. E quindi durante 2 anni si è immerso in tutte le letture, ha letto più di 2.000 lettere, perché Rosa ha scritto tantissime lettere, bellissime, uno che è anche uscito in Italia, le lettere a Leo Jogisches, il suo amato compagno di lotta durante tanti anni, anche lui polacco, quindi ha letto tutte le lettere, tutti i testi che allora, prima che fosse uscita tutta la opere complete di Rosa, e ha studiato per mesi e mesi all'Istituto di Marxismo-Leninismo a Berlino Est, con l'appoggio della più importante conoscitrice di Rosa Luxemburg, dell'opera di Rosa Luxemburg, che era Anna Lassica, che purtroppo ha mancato pochi mesi fa. E dopo aver fatto questa immersione, questo studio dei testi, del personaggio, delle lettere, anche perché lei dice che i testi è un messaggio politico, è una cosa, ma dare vita a una persona, una donna così complessa come Rosa, ci vuole anche elementi per ricostruire, rivivere, risentire insomma la la persona stessa anche nella sua intimità, diciamo, nel suo soggettivo, è andata a cercare i due o tre sopravvissuti che hanno conosciuto Rosa di persona, e così dopo questi due anni, quasi un po' di più, di ricerca ha scritto la sceneggiatura e poi finalmente ha fatto il film. Ti ricordo che Fastid è morto nell'82 e lei poi alla fine dell'84 poi 85 ha girato il film. Certo, e da un lato una grande, secondo me importantissima, lezione di storia della tragedia della prima guerra mondiale, contro la quale lei ha lottato tantissimo, anche contro i propri compagni del Partito Socialdemocratico, che purtroppo hanno un nazionalismo, un patriottismo appoggiato la guerra, e questo era uno dei punti più drammatici di scontro tra lei e il suo partito, che tutto questo prima della costituzione del Partito Comunista. Lei era una convinta militante del pacifismo, vuol dire contro la guerra e l'inutile versare sangue delle masse popolari, e soprattutto era anche una internazionalista, al contrario dell'onda del nazionalismo che poi alla fine della Repubblica di Weimar, come tutti sappiamo, negli anni 30 ha portato al nazionalsocialismo, no? E quindi allora, alla metà degli anni 80, che il film è uscito, aveva un successo strepitoso, non solo nelle sale, perché migliaia e migliaia di persone si sono identificate con questa lotta contro la guerra, perché allora, ti ricordi, c'era un fortissimo movimento per la pace a metà e fine anni 80, fino ai primi 90 in Europa, e molto forte in Germania anche, ma anche nel senso che c'era una rinascita di vendite di tutti i testi, tutti i libri di Rosa. Tutta una volta il film è uscito e dopo due o tre mesi tutte le librerie avevano le vetrine piene dei scritti di Rosa Luxemburg, che infatti è stato non solo una grande teorica, una filosofa, una organizzatrice, una scrittrice, una pubblicista. Lei era, insomma, la penna pregiata della Rote Fane, della Bandiera Rossa allora, ma era anche una icona di un movimento internazionalista e antimilitarista. E questo è il punto che sicuramente li ha conquistato un posto nella storia al di là, molto al di là della Repubblica di Weimar. Bene. Allora, ricordiamo questa lezione evento, lunedì 21 gennaio 2019, dedicata a Rosa Luxemburg, organizzato dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico insieme al Centro Sperimentale di Cinematografia, al Goethe Institute di Roma, la Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, alla presenza della regista Margaret von Trotta, perché sarà proiettato anche il suo film Rosa L. Un saluto e un ringraziamento a Monica Maurer. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci. Grazie. Presto. Grazie. Ciao. Grazie, Federico. Grazie. Ciao. Con il regista Alessandro Scillitani per parlare del suo documentario Alla ricerca di Europa, realizzato insieme a Paolo Rumiz, che sarà in tour a partire dal 22 gennaio 2019. Alessandro, ben trovato. Ciao a tutti, eccoci qua. Raccontaci un po'. Sappiamo benissimo che ci sono le elezioni europee alle porte e c'è un certo modo di pensare l'Europa che è molto diffuso. Secondo me è importante cercare parole nuove, e forse le parole nuove arrivano dai nostri antenati, per cui io e Paolo Rumiz abbiamo raccolto l'istanza di un grande amico di Paolo, Nino Tassinari, che vivendo a Cardiff, insegnando lì, sentiva l'esigenza in un qualche modo di rappresentare questa Brexit, che tra l'altro appunto ha il suo forse primo vero sviluppo a fine marzo. A quel punto siamo imbarcati su una barca a vela dalla Turchia alla Grecia e abbiamo immaginato di portare questa barca del 1910, trasformarla in toro, di portarla quindi come fu il mito di Europa che viene trasportata da Giove, trasformato in toro, per la formazione del nostro continente. E quindi tra pensieri del passato e pensieri dell'attualità ci siamo mossi evidentemente in paesaggi magnifici lungo l'Egeo e abbiamo raccolto anche i racconti delle persone che incontravamo nelle varie isole. Quanto è durato questo viaggio? Il viaggio è durato un paio di settimane ed è stato molto intenso, devo dire, perché come spesso capita i racconti che scaturiscono dal, forse anche, non lo so, anche il fatto della vicinanza con un grande come Paolo Rumiz, noi abbiamo raccolto questa modalità di un'autenticità, che anche lì questo si è verificato, sono stati degli eventi magici che sono parati davanti al nostro sguardo e al nostro ascolto e per tutto condizionato la sceneggiatura del nostro film. Che impressioni hai ricavato da queste due settimane? Diciamo che c'è questo elemento, essenzialmente è molto difficile, le radici del nostro mito nelle persone di oggi, molte sono inconsapevolmente abitanti di quei luoghi. La narrazione in molti casi è annubbiata dalla narrazione attuale, dal fatto di pensare che l'Europa sia effettivamente un luogo insieme solo per la questione economica, con i problemi anche dei confini da difendere, la paura dei migranti. Ecco, questi elementi sono molto presenti. È chiaro che questa cosa noi l'abbiamo comunque voluta lasciare così com'era, proprio perché come sempre abbiamo voluto lasciare spazio alle opinioni e al racconto. Certo, tutto questo è contestualizzato in un paesaggio pazzesco che mette in evidenza come l'Europa o Europa potrebbe essere tutt'altro, che nella narrazione appunto della memoria, della storia e delle radici da cui proveniamo. Quindi proprio in questi giorni il Presidente del Parlamento Europeo ha parlato ad esempio del problema come è stato affrontato il caso della Grecia e certamente ci sono delle responsabilità, sappiamo benissimo questo. Io credo che il mio film possa in qualche modo mettere uno sguardo diverso, uscire da certi stereotipi che purtroppo ci accompagnano nella quotidianità. Ci sarà un tour di presentazione, un po' come il viaggio che avete fatto? Assolutamente, per me è essenziale rappresentare il film e portarlo in giro, come se fosse uno spettacolo, perché di fatto il cinema questo è, ed è molto bello vederlo su grande schermo, ed è importante anche che sia accompagnato il più possibile dagli autori. Quindi cominciamo col Trieste Film Festival e poi andremo a Bruxelles, apriremo il Festival Italia in Doc, poi ci sarà una presentazione a Genova appunto il 29 di questo mese, in apertura poi anche di una rassegna di film tributati alle mie realizzazioni con Paolo Rumiz, quindi i viaggi di Rumiz, poi a Rosa da Reggio Emilia e poi in giro anche nel Sud Italia e poi a Varese, a Cremona, a Matera, appunto. C'è un vero e proprio tour che andrà avanti febbraio e anche poi naturalmente nei mesi successivi. Per seguirvi ci lasci dei riferimenti web? Sì, allora, per seguirci www.cinemaiscritto.it alessandrosciritani.it, oppure artemidefilm.com, oppure anche ovviamente sul mio Facebook sarà possibile assolutamente seguire i nostri appuntamenti, che poi naturalmente crediamo che diventeranno ancora più lunghi. L'auspicio è quello di allargare ancora di più le date di presentazione. E allora ricordiamo il documentario Alla ricerca di Europa, realizzato insieme a Paolo Rumiz, in tour dal 22 gennaio 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Scillitani. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Alla prossima, grazie a voi. Ciao. Donatello Fumarola, uno dei curatori di una serie di eventi multidisciplinari dal titolo Il mondo infine, vivere tra le rovine, a Roma, alla Galleria Nazionale, dal 13 dicembre 2018 al 23 gennaio 2019. Donatello, ben trovato. Ciao Federico, ben trovati a voi. Allora, raccontaci tutto. Allora, dunque la mostra, non so se ha ancora senso chiamarla mostra, perché è un insieme nell'idea di Ilaria Bussoni, che è la persona che diciamo ha proposto proprio il progetto, poi coinvolgendo altre due o tre persone tra i quali io. È un progetto innanzitutto legato ad un'idea di fine del mondo, diciamo, a questa specie di ossessione che pare diventata nazional popolare. A me sembra di avvertire e di vedere tutto in giro una specie di tensione apocalittica generale, ma da vario tempo. E quindi un po' era cogliere questo senso della fine, il pianeta va a finire, se entro 20 anni non smettiamo di fare questo piuttosto che usare gli idrocarburi. Dall'altra, diciamo, uscire da quest'ennesima forma di antropocentrismo, per cui questo protagonismo per cui finiamo noi finisce tutto, e provare a cercare là dove il mondo infine continua e va avanti, ha le sue leggi al di là del riscaldamento globale e di tutte le fini immaginabili. Per cui diciamo che il senso poi di organizzarlo in un museo d'arte è stato quello anche di infrangere tutta una serie di regole, tra cui molti incontri con geografi, ce n'è uno con Farinelli, che è un grande geografo italiano, con botanici, con filosofi, con artisti, con registi, con performer teatrali, con tutta una schiera, diciamo, di discipline, di indisciplinati provenienti da vari campi, cioè, che hanno lavorato su questo tema, naturalmente, da punti di vista molto diversi. E le proposte che poi ognuno di noi ha fatto, cioè io che ho curato la parte cinema, Serena Socio quella teatrale, Simone Ferrari quella riguardante diciamo l'arte antica o rinascimentale, e Ilaria Bussoni, l'ideatrice del progetto, con tutta diciamo l'arte contemporanea che segue da un po', è stato quello di far intrecciare i percorsi. Per esempio ci sarà un cortometraggio di un giovane regista, tra l'altro romano, Federico Francioni, Octavia, che è una specie di piccolo film mappa, una specie di geografia delle immagini di repertorio, che introdurrà un incontro, così come a gennaio sarà la proiezione in pellicola di un grande film di Stan Breckage fatto con abiti di farfalla, foglie di piante, petali di fiori, e quello diciamo diventa organico ad un incontro di botanica, visto che se parliamo di mondo, di fine del mondo e di possibilità che ci possa ancora essere un mondo, la botanica è una delle cose principali, più dell'arte, più della filosofia, ha sue leggi che diciamo, prescindono da noi. Questa è un po' l'idea generale. Sì, quindi i titoli dei film li hai scelti anche in base agli incontri previsti? Esatto, agli incontri, ai temi che ci eravamo detti di toccare, dalla cosmogonia, per cui per esempio ci saranno questo film di montaggio di Johan Lurf, che è un artista austriaco che però si è cimentato con un film un po' di montaggio, alla fuori orario diciamo, attingendo da 500 pellicole che vanno da Méliès a Guerre Stellari, solo i cieli stellati. E il suo film, che tra l'altro ha girato abbastanza in Europa, si chiama Stelle, Stars, e sono solo stelle, le stelle nei film di Méliès, le stelle in 2001 di Odissea nello spazio, le stelle in Star Wars nei titoli di coda, piuttosto che non il documentario bellissimo di Harold Morris, ormai purtroppo molto raro, con Stephen Hawking, il celebre astrofisico, e quelli diciamo assecondano un incontro con Giovanni Piperno che ci parlerà appunto di astronomia. Ogni titolo, i due film di Jelimir Žilnik che chiuderanno tutta la mostra, che sono dedicati all'immigrazione, cioè ai popoli che dall'Afghanistan, dal Medio Oriente, dal Nord Africa cercano di entrare, di emigrare verso l'Europa, i due film di Žilnik eccezionali che ha dedicato a queste persone seguendole in alcuni tracciati abbastanza tra l'altro incredibili, sono accompagnate dagli incontri con ad esempio qualcuno di Baobab, visto che c'è stata recentemente a Roma uno sgombero piuttosto grave legato a migranti, cioè persone che vengono da altri paesi e poi qua si ritrovano a volte anche peggio di dove sono partiti. Quindi il senso era quello di far interagire un po' il tutto, come se fosse un corpo vivo la mostra, e respirando tira fuori immagini, suoni, persone, parole. I titoli nel complesso quanti sono? I titoli dei film sono 14, sì. Dal cortometraggio di Breckage che dura 4 minuti al film di Giulio Bressane che ha una durata più diciamo standard da lungometraggio, ci sono dei documentari di durata media fatti da alcuni giovani autori italiani tra cui Malastrada, Alberto Momo, sono più o meno di un'ora, durate varie, però sono 14 titoli. Bene. Per seguire il programma ci dai dei riferimenti internet? Credo il sito della galleria, che sarà la Galleria Nazionale, immagino, mi trovi impreparato. Vabbè, basta cercare su un motore di ricerca. Basta cercare, sì, sì. So che c'è una pagina Facebook della mostra che si chiama Il Mondo Infine. C'è l'evento Facebook che mi avevi girato, sì. Esatto. E allora ricordiamo la mostra Il Mondo Infine, vivere tra le rovine, a Roma, la Galleria Nazionale, dal 13 dicembre 2018 al 23 gennaio 2019. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Donatello Fumarola. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, ciao, ciao. Buona giornata. Con Stefano Finesi della Farfalla sul Mirino, curatore dell'ottava edizione di A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, a Roma, Palazzo delle Esposizioni, una rassegna cominciata il 30 ottobre 2018, andrà avanti fino al 28 maggio 2019. Stefano, ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora, c'è stato intanto un primo appuntamento il 30 ottobre, il prossimo sarà il 13 novembre, giusto? Sì, e poi ecco, il 13 novembre sarà anche uno degli eventi insomma di quest'anno, perché proiettiamo in collaborazione con l'Istituto Polacco La Madre dei Re, che è un film di Janusz Zagórski dell'82, è un film di culto, diciamo, che viene proiettato all'interno dei festeggiamenti del centenario della Polonia moderna, e che all'epoca fu censurato e bandito dal regime comunista e venne proiettato soltanto nell'87 al Festival di Berlino, dove vinse l'Orso d'Argento e venne accolto come un capolavoro, perché è un film che di fatto racconta 20 anni di storia polacca attraverso la storia di una famiglia, cioè di una madre sola con 4 figli. Per cui insomma è un evento particolare, perché è un film difficile da vedere, che come tutti gli altri film verrà proiettato in questa in 35 mm, peraltro è una copia che viene dagli archivi dell'Istituto Polacco ed è molto rara, per cui ecco, è veramente un'occasione, un bel evento, e anche l'occasione per recuperare un film conosciuto da pochi ma notevolissimo. E poi guarda, intanto gli altri titoli in programma anche sono, alcuni sono già popolarissimi, altri meno, come sempre facciamo, il filo rosso è sempre il piacere del cinema, come dire, e poi il discorso che ormai sono 17 anni che fa l'associazione, ossia la battaglia per il recupero della pellicola 35 mm. Sì. Stefano, quanti titoli in totale? Sono